se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano, tu mi riaccendi col cavo e mi ricarichi anche se non sono stato bravo. Se non ti attacchi ormai lo sai, mi sto spegnendo. Fai veloce perché sono al 2%. È un momento no che non ci sto più dentro. E pensavo baby, mi scuso anche se è tardi per la mia pazzia, ma ho confuso la realtà con la fantasia, ora sono rimasto senza batteria, tu mi hai lasciato in strada senza autonomia. Pensavo quando bebe io te bene bene, prima di male male insieme se da luna viene. La mia tipa non l'avevo mai postata, la mia vita è vera vedi non l'avevo mai impostata. Mai. Cuore nero il mio Sabina e i tuoi capelli, soldi non fanno contenti, piangi anche con lenti Fendi. Io non volevo il mondo, mi bastavi tu, ora mi sento così blu. Ma se mi prendi la mano, tu mi riaccendi col cavo e mi ricarichi anche se non sono stato bravo. Se non ti attacchi ormai lo sai, mi sto spegnendo. Fai veloce perché sono al 2%. È un momento no che non ci sto più dentro. E pensavo baby, mi ha obbligato a non vederti, non telefonarti, ma non mi puoi obbligare a non pensarti, mi sono scaricato e sei la causa, quando passi metti il mondo in pausa. Dove ti tocca lui sento male io, ho inventato l'amore quindi penso che ci odiasse Dio. Lo chiedo all'alba se ritarda per domani, le tue mani ancora su di me. Ma se mi guardi negli occhi, se mi guardi negli occhi, tu ti connetti e mi sblocchi, tu ti connetti e mi sblocchi. Se mi manchi come addosso i miei brillocchi. Se ti chiamo mi dà spento, non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano, tu mi riaccendi col cavo e mi ricarichi anche se non sono stato bravo. Se non ti attacchi ormai lo sai, mi sto spegnendo. Fai veloce perché sono al 2%. È un momento no che non ci sto più dentro. E pensavo. Se non ti attacchi ormai lo sai, mi sto spegnendo. Fai veloce perché sono al 2%. È un momento no che non ci sto più dentro. E pensavo.